Inizio del sesto capitolo del trattato di Mishnah di Yomma. Faccio una piccola premessa. Noi siamo abituati che quando sentiamo la parola mitzvah, cos'è il significato della parola mitzvah? Mitzvah, ordine. Un precetto, un comandamento, un ordine. Un precetto è una cosa obbligatoria, vero? Normalmente questo si intende quando sì. E quando si dice mitzvah, normalmente si intende questo, però non è sempre così. Vuol dire, a volte il termine mitzvah in un altro contesto è usato in un senso diverso di quello normalmente applicato. E lo vedremo in questa Mishnah, ed è quindi importante capire che altro senso può avere la parola mitzvah. Quando noi parliamo in un contesto di, diciamo così, legislativo, quindi di halakha, lo possiamo vedere sia in aspetti, in contesti halakhici nel Talmud, nella Gemara, lo possiamo vedere nella Mishnah e in altri contesti halakhici. Quando si parla di un obbligo e quindi si vuole esprimere che una determinata cosa, un comportamento, eccetera, è obbligatorio, noi usiamo il termine chovà. Chovà letteralmente vuol dire obbligo. In questo contesto in cui si usa il termine chovà per dire obbligo, usiamo il termine mitzvah per dire il modo ideale di eseguire questo obbligo. Cioè, ci sono alcune cose che possono essere chovà, obbligatorie, e in più ci potrebbe essere la mitzvah, quindi il modo ancora migliore di farlo, ma non, anche se non si rientra nel criterio richiesto per mitzvah, quindi il criterio superiore, comunque l'obbligo è stato eseguito. Adesso vedremo l'esempio nella Mishnah. Cioè, come se facessi un minimo e fatto il precetto. Se lo vuoi fare, esatto, in una modalità quasi a livello di perfezione, credo, allora stai facendo una mitzvah. Allora quella si chiama in questo contesto mitzvah. Sì, sì. Perché se dici stai facendo una mitzvah, anche l'obbligo è la mitzvah. Anzi, è quella il modo, la, quindi, è il modo nel nostro modo di parlare, colloquiamente, sì. Quando noi diciamo mitzvah è inteso come chovà, come obbligo, quell'aspetto lì. Esistono delle cose che noi diciamo non è obbligo, però se lo fai è mitzvah. Quindi è fuori dal contesto normale. Di fuori, oppure è il modo migliore di farlo, ma anche se non lo fai, comunque sei rientrato nell'obbligo, nel precetto. Adesso vediamo cosa ci dice la Mishnah e così sarà più chiaro. Ok? Sentiamo un attimino. La Mishnah torna a parlare dei due capretti di cui abbiamo parlato, che si faceva la sorte, no? Uno la Shem, uno sarà portato come sacrificio, come offerta sul Mizbeach, e l'altro sarà mandato fuori alla Azazel. Ora la Mishnah dice, riguardo questi due capretti, Shnei Seire Yom HaKippurim, i due capretti di Kippur, del giorno di Kippur, mitzvatan, la loro mitzvah, cioè il modo ideale sarebbe che cosa? Sheyu shenehen shavin, che siano entrambe uguali, più simili possibile. Be mare. Mare, mase mare? Alla vista. Alla vista, cioè il loro colore, che sia più simile possibile. L'apparenza. Ubekoma, la misura, la grandezza, che sia più possibile uguale, simile. Ubedamim, damim vuol dire denaro, il loro valore. Ubelekihatan che echad, e che siano acquistati lekihatan, il loro essere presi, però vuol dire acquistati. La kachat vuol dire nel linguaggio della Mishnah letteralmente prendere, ma il senso vero della parola è acquistare. Acquistati insieme. Continuiamo una frase e capiremo cosa vuol dire mitzvah. Ve'af al pishe einan shavim. Salute. Anche se non dovessero essere simili, kasherin, sono comunque kasher per la loro funzione. In questo contesto specifico, mitzvah vuol dire il modo di a priori rientrare in questa mitzvah, in questo obbligo. Se a posteriori non è stato possibile, se non siamo riusciti a trovare gli stessi capretti, uguali, la mitzvah è comunque valida. Siamo rientrati nella chovà, nell'obbligo di questo precetto, ma non l'abbiamo fatto al massimo del modo ideale, che si chiama mitzvah. Allora adesso cerchiamo di fare un altro esempio. Cosa può essere un altro esempio? Vediamo qua. Il modo di fare, di compiere il precetto. In questo contesto? Tu dici mitzvah è la descrizione di come compiere l'obbligo, perché tu ma anche se non c'è facendo. Anche se non c'è questa modalità, comunque c'è l'obbligo, c'è il precetto. Il modo migliore di farlo. Ottimizzazione. Allora, in questo caso è l'ottimizzazione, sì, nel nostro caso. Vi faccio qualche esempio. È sottile la cosa. Sì. Ma il minimo per uscire d'obbligo. Però allora se lo fai meglio, se lo fai con Salute. Usa proprio kasher, allora ecco, tipo la kasherut, allora. Se rispetti che significa come lo rispetti? Cioè che dire, come dire che devi. È del sottile, no, non è molto particolare come cosa. Ma secondo le condizioni in cui tu fai queste cose, sono le condizioni che sta nell'impossibilità di farlo materiale. No, ma infatti penso che sono delle modalità. Modalità non poi l'intenzione. È come la Nefilatia Dante, non c'hai l'acqua. Devi prendere la terra, devi prendere qualcosa. Allora. Come? Sì, no, ho visto tutto un elenco e non voglio entrarci perché è troppo lungo. Però diciamo il nostro contesto che noi abbiamo portato qui è indicativo di una delle situazioni in cui la mitzvah si differenzia dalla chovà, che il termine mitzvah si differenzia nella seguente maniera: le katkhila e bediavad sono due parole che già abbiamo visto. Le katkhila vuol dire a priori, bediavad vuol dire a posteriori. Allora il termine qui, nel nostro contesto, la distinzione tra mitzvah e chovah è: mitzvah vuol dire come bisogna farlo a priori, come dicevo prima, il modo ideale di mettere in atto questo precetto. E se non si è fatto, cioè bediavad, a posteriori, se è stato possibile o per qualsiasi altro motivo non è stato fatto, allora rientriamo nella mitzvah, diciamo nel senso più tradizionale della parola, e entriamo in quel obbligo, in quella chovà, però non è stato fatto il massimo. Da per scontato che uno ci deve aver provato. Esatto. Poi ci sono altri tipi di contesti, per esempio a volte è ancora meno, come dicevo prima, quando si dice mitzvah, è proprio come dire se vuoi lo fai, se non vuoi non lo devi fare, però se lo fai è una cosa in più. A volte il termine mitzvah indica una cosa in più. Più di un precetto. Come? È in un certo senso meno di un precetto, cioè non c'è l'obbligo, esatto, questo vuol però dire. Esatto, non è un precetto. Come faccio un esempio? Per esempio c'è scritto... Quasi una prassi. Non è un obbligo. Esatto. Un modo di fare, cioè una cosa buona. Faccio un esempio. Tu puoi nominare un agente per fare una mitzvah per te, ok? come per esempio se tu ti devi sposare devi dare i kiddushin, che noi facciamo con l'anello alla futura moglie. Volendo puoi nominare un agente di portare. Invece se c'hai la febbre non vuoi andare alla tua kupa, mandi qualcun altro e gli dai l'anello e lui può essere tuo agente rappresentante, rappresentarti. Però la Gemara dice, va bene, un esempio così estremo, la Gemara dice mitzvah bo yoter mi bishlucho. Certo che puoi nominare la gente, la cosa è valida come se l'avessi fatta tu. Non c'è assolutamente nessun livello di invalidità, diciamo così, o grado minore di validità in quell'atto che sia stato. Però mitzvah bo yoter mi bishlucho. È più mitzvah se lo fai te, certo, che se lo fai fare a qualcun altro. In fin dei conti l'atto è quello, non c'è nessuna differenza, però se lo fai tu è diverso. Cosa c'è di diverso? A livello tecnico non c'è nulla di diverso. Ci mette la partecipazione. In questo senso mitzvah come cosa in più, ok? Quello che dicevi prima. Questo è un altro contesto in cui mitzvah non sta parlando del precetto come nel uso normale del termine mitzvah. E ci sono anche altri contesti in cui si usa il termine mitzvah in maniera un po' diversa da quella tradizionale. E questi sono due esempi, diciamo. In questo caso, nella nostra Mishnah, il senso della parola mitzvah è, come spiegano i commentatori della Mishnah, è lekatchila, cioè a priori. A priori bisogna che sia in questa maniera, come abbiamo descritto, che siano uguali i capretti, eccetera. E però abbiamo concluso dicendo, anche se non fossero uguali, comunque siamo rientrati nella mitzvah a posteriori. Ok? Bene. Ora la Mishnah continua e dice. La prima cosa che ha detto, anche se non sono simili, è kasher. Poi dice, la kach echad ayom, se ha acquistato, non insieme come abbiamo detto che bisognerebbe fare a priori, ma acquistato è uno hayom, oggi. Echad le machare uno l'indomani, ok? Comunque kasherin, a posteriori, di nuovo, ripetiamo, è sempre kasher. Perché qua la Gemara poi spiega da dove abbiamo queste indicazioni che devono essere uguali, che devono essere comprati insieme. Ogni cosa ha una fonte, però quelle fonti non intendevano invalidare la mitzvah se non si rientrasse in questo criterio. Intendevano dire le mitzvah, come dicevo di nuovo il termine mitzvah. Per farlo ancora meglio, a priori va fatto così, ma se non è stato possibile, non rende invalida la mitzvah. In termini tradizionali si dice lo me'akev. Lo me'akev. Come si traduce me'akev? Più di ritardare. Non ostacola. Oh, bravo. Non ostacola la mitzvah. Cioè, vuol dire bisogna farlo così, ma anche se non l'hai fatto così, comunque la mitzvah è valida. Ovviamente c'è un criterio base, no? È come quando abbiamo parlato dello Shema nel Talmud. Applichiamo la parola lo me'akev a quello che abbiamo studiato nella Gemara riguardo lo Shema. Abbiamo detto per il primo versetto bisogna avere la kavanah, sì, l'intenzione. Se è chiaro che è bene avere l'intenzione per tutto lo Shema e per tutta la tefilah, però se uno non ha avuto l'intenzione, per esempio nell'ultimo brano dello Shema, lo me'akev, questo non ostacola la mitzvah. Bisogna avere la kavanah? Certo, ma se non l'ha avuta non è me'akev, non lo ostacola la mitzvah. Se però non l'ha avuta nel primo versetto Shema Israel, allora me'akev, ostacola la mitzvah, deve rifare. Oppure se ha perso il tempo, ha perso l'orario. Come se non l'avesse fatto. Qui diciamo, è le mitzvah, ma non è come se non l'avessi fatto. Ok? Dimmi. Ok, proseguiamo un pochino e dice così. Cosa succede met echad mehen? Se uno dei capretti è morto, vanno visti come una coppia questi due capretti. Sono due, è come se la mitzvah è valida se ce ne sono tutte e due. Se una muore, qui siamo arrivati, no? Seconda riga verso la fine. Mete chad mehen, se uno di questi capretti è morto, allora la Mishnah dice dipende quando esattamente è morto, a che punto del giorno di Kippur. Im ad shelohi grill, se ancora non ha fatto il goral, vi ricordate cos'è il goral? L'estrazione. È morto prima ancora dell'estrazione, quindi ancora non è stata designata la funzione di questo capretto, la destinazione di questo o dell'altro, ancora devono fare l'estrazione. Esattamente, allora in quel caso yikach zug lasheni, bisogna portare una copia, diciamo un secondo, per quell'altro che è rimasto in vita, perché abbiamo detto che anche se non sono acquistati insieme, comunque la mitzvah è valida. Allora anche se uno è morto prima della designazione della destinazione, è uguale, si prende un altro. Veim mishe higril, però se è morto mishe higril, dopo aver già fatto il goral, dopo aver già fatto l'estrazione, allora yavi zug acher, a quel punto deve portare due, una nuova coppia, zug è una coppia, un'altra coppia di capretti. Perché la coppia era già valida, adesso che ha perso una, tutta la coppia è invalida. Deve portare una nuova coppia di capretti e rifare il goral, vero? Via grill alehem batechila. E deve rifare dall'inizio il goral, yagril, verbo di goral, futuro, yagril, fa il goral, rifà il goral. Batechila, di nuovo, dall'inizio. Scusa, sì. Introduzione, ma... No. Se, diciamo, come stai spiegando, no? Quello che andava da Azazel, lo mandavano per strada, no? Mm-hmm. Nel frattempo, diciamo che il primo, quello per Hashem, l'avevano già sacrificato. Beh. Quello mentre va, muore. Cioè, uno già è stato sacrificato e l'altro per strada muore. Che fanno? Rifanno tutto da capo? Adesso la Mishnah lo dirà. Adesso la Mishnah parlerà di questo caso. Hai anticipato la Mishnah. Hai visto che geni abbiamo qua? Già la sapeva. Allora la Mishnah prosegue e dice: prima bisogna chiarire, rifà il goral come abbiamo detto, veyomar, e il Kohen dica quando fa il goral deve dire il seguente: im shel shem met, se quello che è morto è quello che sarebbe stato destinato per Hashem, cioè per il Korban. Shel Shem vuol dire del nome di Hashem. Ze she'ala alav hagoral l'Hashem, questo qui che nella nuova sorte che abbiamo estratto è uscito fuori l'Hashem, yitkayem tachtav, che sia al posto di quello che è morto. Se quello che è morto sarebbe stato quello che era Shem, allora che questo sia al suo posto, cioè deve designare che questo è al posto di, però non si sa qual era, perché ancora non aveva ancora fatto, cioè ha fatto proprio perché ha fatto l'agralà, ha fatto l'estrazione. Allora nel caso quello che fosse morto era quello che era per Hashem, allora lui deve dire questo sostituisce quello. Yitkayem tachtav, cioè prende il posto di quello. Veasheni, e il secondo, il secondo della nuova coppia, perché bisogna sottolineare che lui porta una nuova coppia, però della prima coppia già designata, quello che è stato designato, quello che rimane in vita, continua sul percorso che vi era già stato previsto. Perché esiste una regola che riguarda tutti i beni di esseri viventi che possono essere legati al Beit HaMikdash. En ba'alei chayim nidchim, vuol dire non vengono mai respinti fuori, una volta dedicati al Mizbeach. Finito, quello è. Devono andarci, o alla Zazel nel caso. Allora quello lo devono fare. Però lui ha bisogno di avere una seconda coppia perché questo funziona a coppie. Allora deve prendere una seconda coppia, deve rifare la designazione. e deve sostituire uno per l'altro quello morto, ma quel secondo della nuova coppia, cosa ci si fa? Adesso vediamo. Adesso vediamo. Ve'asheni, il secondo, ir'e, lo si fa pascolare. Attenzione, non ci si può fare quello che ci pare, perché è bene del Beit HaMikdash. Tiene di riserva. Appartiene al Beit HaMikdash. Ed è una coppia di un capro di Kippur, riserva per cosa? È dedicato per quello, però non lo fa, perché c'è l'altra, quella coppia, il primo della coppia, quello rimasto in vita della prima coppia. Allora cosa fa? Ir'e deve essere messo a pascolo, però in un'area protetta. Non si può usare così o lavorarci, eccetera. E ad sheista ev, finché avrà, gli capiterà qualche difetto che lo rende invalido per il servizio del Beit HaMikdash. Anche un minimo difetto che può capitare mentre pascola, che si spacca una labbra o si fa male qualcosa. Sì, qualche un minimo difetto, c'è tutta una lista di difetti, e lo rendono invalido per essere Corban. Dal momento che è reso invalido, non lo puoi fare appositamente, ma quando capiterà, allora ve'yimacher, lo si fa vendere dal tesoro del Beit HaMikdash, e i soldi ve'yipludamav lindava, e i soldi vanno messi, gli plu letteralmente cadono, cioè vanno a destinazione di Nedava. Cos'è Nedava? Korbanot che sono offerti come offerta libera. Vuol dire non sono obbligatori, che può capitare quando, un momento in cui, momento morto, diciamo, non c'è niente sul Mizbeach. Allora per rispetto, per mantenere attiva la situazione, si offre un korban in più. Nedava. Nedava vuol dire offerta libera, offerta non obbligatoria. E c'era un fondo per queste, Olot Nedava si chiama, Korbanoti Nedava. Quei soldi vanno in quel fondo. I soldi della vendita del capretto della seconda coppia, che non può essere usato questo capretto direttamente per il Korban, giusto? Perché sostituisce un capretto della prima coppia che ancora è in vita, e quello va alla sua destinazione. Questo secondo capretto della seconda coppia va a pascolare, non ci si può fare niente, finché capita naturalmente che ha qualche difetto, allora lo si può vendere, la kedushah del capretto si trasferisce dal capretto al denaro, e il denaro rimarrà di nuovo un korban, perché entra nel fondo delle korbanot nedava. Sì? Quindi siamo nel caso che uno dei due muoia dopo l'estrazione, quindi se esatto, serve una coppia nuova, uno è rimasto in vita, serve una coppia nuova, quando fa l'estrazione, quello, se fosse mancato quello destinato a Shem, fa la formula di esplicita. Quello della nuova lo sostituisce, la formula l'altro esplicita di riferimento, che questo sostituisce quell'altro di Shem. Sì. Però e il secondo della percorso da qui in avanti viene seguito da quello rimasto in vita. Esattamente. I due percorsi. Nuovo. Quello nuovo segue quest'ultima cosa che hai detto. Il secondo della coppia nuova segue il percorso dell'andare a Pasqua. Però ecco, il primissimo ormai è destinato, quello sì, esatto, parte. Non viene più respinto dalla sua posizione. E poi continua Mishnah e dice: perché ci si deve comportare in questa maniera? Considerando che esistono altri casi in cui esiste una bestia destinata ad essere Korban, ma non può essere portata sul Mizbeach per diversi motivi, adesso non voglio entrare nel dettaglio, in quel caso ci sono dei casi in cui si dice la bestia deve essere lasciata lì finché muore, non curata a pascolo come questa qui che abbiamo detto qua. In questo caso non lo diciamo, perché la Mishnah dice She'en chatat tzibur meta. La regola che dice che un korban, che si chiama si parla dello korban chatat, cioè quello espiatorio, deve morire, quell'altro caso a cui alludevo, non si applica al Khatat Zibur. Zibur vuol dire pubblico. Questo Corban è un Khatat Zibur, è un capro espiatorio, letteralmente, da qui il termine, per il Zibur, per tutto il pubblico, e lì non si applica la regola che deve morire, deve, diciamo, rimanere lì finché muore. Lì non si applica quella regola e quindi lo facciamo andare a pascolo finché c'è il difetto e poi lo si vende, eccetera. Cioè, nell'altro caso non c'è la possibilità di fare questo scambio, di fare questo riscatto, diciamo così. La Kedushah non si può togliere, quindi non ci si può fare niente. In questo caso invece si può, e quindi si fa il riscatto, e poi il denaro va alle future korbanot, come abbiamo detto, offerte libere. Cioè, se qui muore, c'è però... Sì? E dopo l'estrazione non muore quello che era destinato a Shem? Mm-hmm. Abbiamo detto che quello che succede... Se muore... L'altro, adesso diciamo, Vim, c'è l'Azazel, se invece fosse stato quello di Azazel, allora il Kohen Gadol dice... Quando fa l'estrazione, Zesha la lava gora la Azazel, questo qui nuovo resta sul quale è andato quello di Azazel, sì, va a sostituire Azazel. Quello Azazel che è morto, Yitkayem Tachtav, Veasheni, e quell'altro secondo invece, gli re, leggiamo, gli re, va al pascolo, Adce Istae, finché viene, gli capita un difetto, Vimacherev si vende, Vipludamavlindava, e il suo valore va in questa nedavà che abbiamo detto in quel fondo, come l'altro. Uguale, solo a specchio ribaltato. Esatto. Tutto uguale. E qui appunto conclude quello che dicevo, Shen Khatat Zibur Meta, perché il Khatat di un pubblico non deve andare a morire, può essere riscattato. Ma c'è un'opinione minoritaria che dissenta, che dice no, invece deve morire come quell'altra Khatat. Rabbi Yehuda Omer Tamut. Secondo lui non c'è questa differenza tra il korban khatat, il korban espiatorio del yachid, cioè del singolo, dell'individuo, e del zibur, cioè del pubblico. Per lui si applica la stessa regola. E per questo motivo Rabbi Yehuda dice ancora, Veoda ma Rabbi Yehuda, nishpach adam, nel caso fosse perso, versato via per sbaglio il sangue, prima che il Kohen Gadol finisce di fare lo spruzzamento, come abbiamo ricordato questo caso nel capitolo precedente, si perde il sangue, e che lui applica appunto la stessa regola, la perdita del sangue, quindi il non portare a fine il fine di quel Corban, oppure la morte del Corban dopo che è stato estratto e designato, ma prima che appunto si è fatto tutto il resto, è uguale. Che sia versato il sangue, tecnicamente, cioè non si è portato a termine la cosa. Cosa ci si fa? Allora, secondo lui, Yamuta Mishtaleach. Se il sangue del Korban è stato perso, allora anche la copia di questo Korban, cioè a Mishtaleach, quello che viene mandato via, che non rimaneva nel Beit HaMikdash, che veniva mandato via, dovrà morire. Non come abbiamo detto all'inizio, che sì, il primo della prima coppia comunque va a finire la sua designazione e il secondo della coppia va a pascolare. Lui dice no. Noi abbiamo detto En Bale Chaim Nitchim, una cosa vivente che arriva non viene respinto via dalla sua cosa ormai designata. Lui dice Bale Chaim Nitchim, possono essere respinti. Se non si mantiene la coppia, si fa tutto con la nuova coppia. Per cui fino alla conclusione di tutta l'operazione. Almeno il sangue, sì, che viene spruzzato. Esatto, in questo senso la conclusione dell'operazione. Yamuta Mishtaleach. Ma il fine del fine è il sangue, praticamente. Come? Il fine dell'operazione è spruzzare sangue. Quello è il fine più importante, diciamo così, sì, che conta per considerare la cosa è stata fatta. Esatto. Finita, sì. Sì. Sì, anche se ci sono altri aspetti, sì, però questo è essenziale. Ok, meta mishtaleach uguale il contrario, secondo Rabbi Yehuda, quindi completamente contrario di quello che abbiamo studiato fino adesso nella Mishnah. Meta mishtaleach, se invece secondo Rabbi Yehuda muore quello che sarebbe stato mandato via, mishtaleach, allora cosa bisogna fare? Di nuovo prendere una nuova coppia, eccetera. Cosa fare con quello che già quello è lì andare, ancora nel Beit HaMikdash? Non è andato, quello che è andato è morto, ma quello che è rimasto, quello è rimasto in me. Il secondo, l'ultimo caso di Rabbi Yehuda è meta mishtaleach. Se quello che deve essere mandato via è morto, quello è morto prima di andare. È rimasto quello sano nel Beit HaMikdash, già shachtato, yishafech adam, butta via il sangue. Cioè ugualmente non considera più l'altra parte della coppia e quindi secondo lui di nuovo tutta la coppia deve essere fatta, si azzera tutto, si azzera tutto, tutta la coppia deve essere rifatta e da capo, non prendiamo più in considerazione. Ovviamente la halakha, dove va a finire quello che la halakha per ciò che riguarda Balei Chaim Nidchim, cioè se si può respingere dal Mizbeach l'essere vivente che è stato offerto, non segue Rabbi Yehuda, segue la, come l'abbiamo visto nella prima parte della Mishnah. Quindi si può considerare che si prende una nuova coppia per la prassi della coppia, ma che il secondo capretto della nuova coppia poi va a pascolare, perché il primo non viene respinto. Questa la halakha rimane così come la maggioranza, cioè la prima, il Tana Kama, diciamo, il primo Tana della Mishnah. Vuol dire che è più facile, meno rigoroso nei termini che abbiamo detto. Rabbi Yehuda è meno rigoroso? No, al contrario. Ah, certo. Sì, sì, sì, sì, vero. Anzi, ricominciare da capo, prendi una sembrerebbe che la prima parte è meno rigorosa. Sì. Ok, che fine va concludiamo qui la Mishnah.